America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Oggi Wall Street ha chiuso al ribasso, non un ribasso straordinario dello 0,41%, ma ha sfondato al ribasso la quota di 18.000, ha chiuso a 17.962,31. Perché apro su questo in mezzo alle lezioni? Perché Wall Street teme Donald Trump e vorrebbe Hillary Clinton alla presidenza. So già che qualcuno dirà, ecco, tu preferisci Hillary. Non è così e ve lo dimostrerò perché ci sono stati degli studi molto interessanti proprio in materia. Dunque non è un'opinione ma un fatto. I due economisti che hanno studiato la correlazione tra l'andamento di Wall Street e l'andamento delle preferenze elettorali hanno concluso che la debolezza di Hillary Clinton coincide con cadute del mercato e viceversa, se invece Trump si indebolisce, il mercato sale. Ecco, questa è una conclusione che questi due economisti, Justin Wolfer dell'Università del Michigan e Eric Swartzwiter di Dartmouth College, hanno verificato in modo fattuale, evidente. Il loro studio si intitola «Cosa pensano i mercati finanziari alle elezioni del 2016?». Ecco, e la risposta l'hanno avuta, come dicevo, da un monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei mercati azionari, futures e mercati valutari, durante i dibattiti presidenziali, in particolare durante il primo dibattito presidenziale. E dunque ho deciso di parlare con questi due economisti per sentire direttamente da loro qual è l'impostazione che hanno dato. Sono qui con me ai microfoni di America 24 proprio Justin Wolfer e Eric Zitzweiter. Ecco, comincio con Justin Wolfer. Insomma, la mia domanda di fondo è: voi dite che Hillary Clinton è la favorita dei mercati. Perché? Dateci un po' un'idea delle conclusioni della vostra ricerca. So it's not me saying that Hillary is better than Donald Trump, it's the financial market saying. Non siamo noi ad evidenziare il fatto che Hillary Clinton sia meglio di Donald Trump. Lo sottolineano i mercati. Durante il primo dibattito, infatti, mentre Hillary si confrontava con Trump, ogni volta che riusciva ad assestare un colpo al suo rivale, aumentando così anche le probabilità di vincere le elezioni, gli investitori compivano transazioni sui futures in borsa in tutto il mondo. Possiamo quindi desumere che gli investitori siano più propensi a comprare quando una vittoria di Hillary sembri più probabile. Riassumerei quindi così i principali risultati di queste analisi. Primo, i mercati non sono semplicemente preoccupati da Trump, sono terrorizzati. Pensano che possa avere una ricaduta molto negativa per le transazioni finanziarie. E questo probabilmente significa anche per l'economia americana. Secondo, non si tratta di un fenomeno esclusivamente americano, è una tendenza globale. Terzo, non è affatto comune per i mercati preferire i democratici ai repubblicani. È una cosa che storicamente non si verifica. Pertanto, quando diciamo che Trump è diverso e che questa elezione è diversa, è assolutamente vero. Così come non è comune che diano tanta importanza alle vicende politiche, come invece avviene oggi. In questo senso, l'elezione di Trump sembra proprio essere un evento completamente diverso da tutte le precedenti elezioni americane, con conseguenze potenzialmente altrettanto differenti a livello economico. Ecco, questa è la dichiarazione di Wolfer. Devo dire che qui è importante capire quali sono gli aspetti di programma che hanno portato gli operatori a preferire Hillary a Trump. E devo dire, a parte le questioni di fondo che riguardano multilateralismo, commerci, emergono varie altre cose. Per esempio, i timori di rischi, inaffidabilità impliciti in un'amministrazione Trump che sarà gestita in famiglia, con figli, genero e così via. Ci sono anche però aspetti tecnici su cui Trump e Hillary divergono. Per esempio, Hillary ha respinto l'idea di imporre una tassa sulle transazioni finanziarie richiesta da alcuni dei suoi più influenti sostenitori, per esempio Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, che l'hanno aiutata, ma vogliono qualcosa in cambio. Loro sono della sinistra del partito. Ecco, al posto di questa tassa, favorisce Hillary una tassa molto più contenuta sugli ordini annullati da parte degli operatori che usano algoritmi ad altissima velocità e volumi per speculare sul mercato. Altro aspetto, mentre Trump aggredisce Wall Street e le grandi multinazionali, accusa entrambi di essere al centro di un complotto dei poteri forti contro gli americani e poi promette punizioni, interventi, Hillary è molto più pragmatica. Ecco, tornando ai miei interlocutori che sono qui con me, i microfoni di America 24, voglio chiedere a Eric, fra i vari grafici che dimostrano queste correlazioni fra andamento del mercato e possibilità di vittoria di Hillary, ce n'è uno che ha delle linee blu e verdi che ho visto all'inizio del vostro rapporto. Ecco, me lo spiegate? Me lo spieghi per bene. Raffigura due linee. Una rappresenta l'S&P 500, mentre la seconda riproduce la possibilità di Clinton di vincere l'elezione. Questa possibilità è stata desunta dai prediction market, dove è possibile acquistare un titolo che rende un dollaro nel caso di una vittoria di Hillary. All'inizio del dibattito era possibile comprare al prezzo di circa 63 centesimi, mentre al termine del confronto il valore era salito attorno ai 69 centesimi. Possiamo dunque affermare che le sue probabilità di vittoria sono aumentate di circa il 6%. Questo è ciò che succedeva sul fronte politico, ma al contempo si può notare come la linea dell'S&P 500 si muovesse in modo molto simile all'altra. Si evidenzia una situazione di scambi piuttosto calma all'inizio, quando il dibattito non era ancora entrato nel vivo, mentre si registra un'impennata proprio durante il corso del confronto, al termine del quale il grafico torna piatto. Quello che abbiamo riscontrato è che i mercati sono cresciuti dello 0,71% durante il confronto, reagendo ad un aumento del 6% delle probabilità di vittoria di Hillary. In seguito abbiamo provato ad elaborare una stima di quanto avrebbero potuto crescere i mercati se le possibilità di Clinton fossero state al 100%, ovvero quale sarebbe stato il loro valore con la vittoria certa di un presidente piuttosto che di un altro. Il risultato è che la possibilità di crescita sarebbe pari al 12%. Dobbiamo però tenere conto che allora Hillary Clinton aveva circa il 90% delle possibilità di vittoria, quindi la maggior parte di quel 12% era di fatto già stata scontata. Se le elezioni fossero state quella notte e Hillary avesse vinto portando al 100% le sue possibilità, ci si poteva dunque aspettare una reazione al rialzo dei mercati, ma non del 12%, bensì di circa l'1,2%. E oggi, con i mercati in perdita, se Hillary dovesse vincere, ci sarà quasi certamente un forte upside, che potrebbe anche essere il 10% in pochi giorni. Se vincesse Trump, credo che le diminuzioni dell'indice Dow Jones non siano ancora state scontate del tutto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di scommesse, di mercati che vorrebbero Hillary piuttosto che l'altro, che addirittura puntano su un candidato o sull'altro, e allora they told the wet sprocket, I'll bet on you, scommetto su di te. Slowly, the waters rise around you.